Bentrovati su Radio Wombat, bentrovati con Soul Time. Siamo giunti alla 20ª puntata di questa trasmissione che si occupa di musica soul con un occhio di riguardo al Northern Soul. Quindi, prima di iniziare questa puntata, mi è venuto in mente che la nostra sigla di Soul Time, da cui prende anche il titolo la trasmissione, è un brano che si intitola appunto Soul Time di Shirley Ellis, ma non abbiamo mai ascoltato nient'altro oltre la sigla di Shirley Ellis. Quindi volevo proporvi un suo brano. Prima due cenni storici su chi è stata Shirley Ellis. È stata una cantante attiva per pochi anni, per un decennio, dal 1958 al 1968. È nata con il nome di Shirley Mary O'Gara, mentre il suo stage name, il suo nome d'arte, era appunto Shirley Ellis, nel 1929, anche se alcuni documenti la daterebbero al 1927. È stata appunto una cantante americana di musica soul e anche una scrittrice, originaria in realtà delle Indie occidentali. Il suo brano più famoso, qui appunto a Soul Time conosciamo il brano Soul Time, che in realtà non ha raggiunto grandissime vette in classifica negli Stati Uniti, sia nella classifica R&B che quella più generica, questo brano Soul Time del 1967, mentre il suo successo principale è stato proprio il suo singolo di debutto del 1963, che si intitola The Nitty Gritty, che arrivò addirittura al quarto posto in classifica e la rese famosa in tutti gli Stati Uniti per quella che è stata la sua breve carriera. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo pezzone di Shirley Ellis, The Nitty Gritty. Right down to the real nitty-gritty. E questa era la bellissima The Nitty Gritty di Shirley Ellis. Proseguiamo la selezione vinilica di quest'oggi qui a Soul Time con un altro pezzone. Ci andiamo ad ascoltare Jimmy Holiday, The New Breed, questo pezzo, un grande classico della scena Northern Soul, prodotto da Bill Silva e arrangiato da Jerry Long, stampato su etichetta Kent. È proprio la puntina su questo dischetto Kent, sta per partire. Ci ascoltiamo The New Breed di Jimmy Holiday. Gather round, girls, and take a look at me, 'cause I got something that you ought to see. Yeah, the things I do, I should please, 'cause I'm part of a new breed, part of a brand new breed. To hold you tight, and I got some good love, and it's out of sight. Yeah, the things I do, I should have please called. I'm part of a new breed, part of a brand new breed. Holiday. Quindi proseguiamo con un altro artista che si chiama George Alan. Vi faccio ascoltare il lato B di questo dischetto con etichetta Solo Play Records, questo 7 pollici, quindi il lato B che porta come titolo Come On Home, George Alan. Come on back. Oh, whether you're right, whether you're wrong. Oh, oh, oh, oh, baby. Oh, whether you're right or whether you're wrong. Well, your daddy loved you, wants his mommy home. Now come on back. Oh, whether you're right, whether you're wrong. Come on. Ok, rieccoci in studio. Quindi proseguiamo la nostra selezione vinilica con ZZ Hill, con un brano che si intitola What More. ZZ Hill è stato un cantante blues americano conosciuto principalmente per le sue registrazioni negli anni 70 e primi anni 80, tra cui il suo album più conosciuto del 1982, inciso per la Malaco Records, Down Home, che rimase quest'album rimase nella classifica Billboard per quasi 2 anni, che è un gran record trattandosi di un album blues. Infatti la canzone contenuta all'interno di quest'album, Down Home Blues, viene considerata la canzone più conosciuta, sempre rimanendo appunto in ambito blues, degli anni 80. Secondo la Texas State Historical Association, Hill ha ideato una combinazione di blues e stile contemporaneo di soul, contribuendo a ripristinare il blues e a diffonderlo presso la moderna coscienza della gente di colore degli afroamericani. Hill è nato a Naples, in Texas, e ha iniziato la sua carriera come cantante alla fine degli anni 50, come componente di un gruppo gospel chiamato The Spiritual Five, girando in questi primi anni lungo tutto il Texas. Il suo stile musicale è stato influenzato da artisti come Sam Cooke, B.B. King e Bobby Blue Bland. E iniziò appunto a suonare le sue canzoni nei club di Dallas e dintorni. Fu incoraggiato poi da Otis Redding, che l'aveva ascoltato e l'aveva visto esibirsi, e quindi iniziò la carriera dietro l'incoraggiamento appunto di Otis Redding. Poi, dopo questi primi anni come cantante, subito è stato ingaggiato dalla Kent Records, e la maggior parte delle canzoni che sono state registrate per la Kent sono state scritte da lui e coscritte e scritte insieme, scusate, scritte insieme dal noto sassofonista Maxwell Davis. Nel 1968, poi, ZZ Hill lasciò la Kent Records, passando all'etichetta Capricorn in Georgia. Di ZZ Hill ci andiamo ad ascoltare questo brano che si intitola appunto What More su etichetta Kent. You got me where you want me, pretty baby. What more do you want? Since you got me where you want me, pretty baby. E dopo questo stilosissimo brano di ZZ Hill, proseguiamo con un brano di Jimmy Ellis. Ci ascoltiamo sempre il lato B di questo dischetto su etichetta Salem Records. Ci ascoltiamo Put It On Your Mind. Lui è Jimmy Ellis. You may not realize that I know exactly what you're putting down, but I've got something I wanna tell you. I'm so tired of being your clown. You may not accept it, baby. No! Oh, baby, yeah. Put it on your mind. Put it, yes, I am. On your mind. Put it on your mind. Put it on your mind. You thought you had me wrapped around your little finger, and you could do with me as you please. But I've got news for you, baby. It's over, you come begging on your knees. You may not accept it, baby. No! Oh, baby, yeah. Put it on your mind. Put it, yes, I am. On your mind. Put it on your mind. Gonna put it on your mind. Ooh, there's no need for me to give you, baby, just to see if that old saying is true. Cause the rope that you have around your neck is too tight now, and you don't know what to do. You may not accept it, baby. Jimmy Ellis con Putting It On Your Mind. E proseguiamo quindi con i lati B di questi dischetti. Passiamo a un dischetto Modern Records e ci ascoltiamo il lato B di questo brano del 1968 di Johnny Gilliam. Il brano in questione è Baby Take Me Back, Johnny Gilliam. Inside, I really needed you. But everybody makes one big mistake in their life. And all in mine was when I went away and left you. Hey, all my needy girl. Oh, I can't stand this pain any longer. Any longer. Johnny Gilliam con Baby Take Me Back. Quindi facciamo partire la nostra sigletta, perché da un po' che manca la rubrica, la domenica sta qua, ci ascoltiamo il nostro saggio Toto Cutugno. La sigletta è partita con un volume un po' basso. Comunque, questa rubrica l'ho saltata per un po' di puntate, è dedicata alla musica soul in italiano, o comunque in generale a qualcosa che ci somiglia o che ci va da vicino e che è stata o interpretata o tradotta o coverizzata da artisti italiani e non, ma comunque in lingua italiana. Ci andiamo ad ascoltare quest'oggi un brano del 1973 di Adriano Celentano, un brano che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo, ma poi ci fu una polemica con gli organizzatori, quindi non partecipò, ma fu comunque inciso su etichetta Clan, di proprietà dello stesso Celentano, e ci ascoltiamo questo 45 giri del 1973 che si intitola L'unica chance, un brano che già 30 anni fa iniziava a criticare le abitudini alimentari e la monnezza che ci fanno mangiare ogni giorno nei supermercati. Quindi ci ascoltiamo Adriano Celentano, L'unica chance, con un brano che ha molto molto di soul music al suo interno. Grazie. morte, muore lei anziché noi. Muore, muore lei. Muore, muore lei. Muore, muore lei. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Questo era Adriano Celentano con L'unica chance, come vi dicevo, un brano decisamente soul, soprattutto per essere nella penisola italica. Ritorniamo al soul in lingua inglese e passiamo da Celentano a una figura molto importante, è la figura di Mary Ann Fisher. Mary Ann Fisher è cresciuta in una famiglia molto molto numerosa, ha avuto un'infanzia parecchio difficile, ma ha saputo riscattarsi nel corso degli anni producendo grandissima musica e collaborando con grandissimi artisti come Ray Charles, Marvin Gaye e Little Jim Scott. La sua carriera musicale è iniziata negli anni 40, quando ha partecipato a concorsi come al vecchio Lyric Theater di Louisville e ha vinto, vincendone tantissimi, la maggior parte. Poi, dopo la vittoria di questi concorsi, è entrato nell'entourage di Ray Charles, esattamente nel 1955, all'età di 32 anni, dopo aver lavorato come lavapiatti, incontrò appunto Ray Charles presso il club Uso di Fort Knox e iniziò a viaggiare e a collaborare con lui dal 1955 al 1958. E come vi dicevo, si è esibita con tantissime leggende della musica americana, tra cui dimenticavo anche James Brown, Jackie Wilson, Percy Mayfield, Bobby Bland e molti molti altri. Poi nel 1967 fece ritorno a Louisville. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo brano di Mary Ann Fisher che si intitola It's a Man's World. Whoa, when you hear a woman cry all night long, oh, you can bet some man has done her wrong. A woman jump and shout, wow, act your life, it's the man she's shouting about. Whoa, now ain't it a man's world? Well, tell it like it is. questo era Mary Ann Fisher con It's a Man's World. Proseguiamo con un dischetto del 1971, sempre su etichetta Kent Records, oggi c'ho questi per le mani, quindi un brano del 1971 di Brenda George. Ci ascoltiamo questo brano che si intitola I Can't Stand It, tra parentesi I Can't Take It No More, Brenda George. Altro pezzone di Brenda George. Quindi proseguiamo con Willie Mabon, nato Willie James Mabon, nato nel 1925, scomparso nell'85, è stato un cantante americano R&B, scrittore e pianista, che ha raggiunto due volte la top 10 della Billboard R&B chart con I Don't Know e I Am Mad. Mabon è nato a Memphis, nel Tennessee, scusate un attimo di impallamento, è nato nel Tennessee a Memphis, mentre nel 1942 si è mosso verso Chicago, dove iniziò a cantare e a suonare il pianoforte, formando un gruppo, i The Blues Rockers, mentre nel 1949 iniziò a registrare per la Aristocrat Records e a seguire per la Chess Records. Il suo più grande successo, I Don't Know, risale al 1952, dopo un po' di pellegrinaggi all'interno degli Stati Uniti, in cui era conosciuto principalmente in ambito R&B e anche jazz, soprattutto per la sua abilità al pianoforte. Nel 1972 Willie Mabon si spostò a Parigi, dove iniziò un lungo tour che proseguì in tutta Europa fino alla fine dei suoi giorni. Quindi ci ascoltiamo Willie Mabon con questo pezzo che si intitola Got to Have Some. Broke, disgusted, ain't got a damn. Got to have some. Got to have some. I need some. can't live without none. Got to have some. I'm going to get some. Well, if that ain't living, I'd like to know what will. Get what you want and don't worry about no bills. I used to work at a grocery store. I got news for you folks, I don't work there no more. Got to have some. Got to have some. I need some. Can't live without none. I'm going to get me some, because I want some, I need some. Get some. Got to have some. Got to have some. I need some. Got to have some. Ain't had none. I need some. I'm broke, I need some dough. Questo era Willie Mabon. Quindi proseguiamo la nostra selezione sempre ai giradischi con un brano di Arthur K. Adams che si intitola I'm Lonely For You. Arthur Adams è nato nel 1943 ed è un cantante blues ispirato principalmente da B.B. King e altri artisti degli anni 50. Ha iniziato la sua carriera come tanti altri iniziando a suonare musica gospel mentre studiava al college. Poi durante gli anni 60 si è spostato a Los Angeles, dove ha iniziato a suonare come musicista di session presso varie case discografiche. Nel 1985 iniziò un lungo tour con Nina Simone, esibendosi al basso. Arthur Adams è un nome leggendario per tutti gli amanti della musica blues. Ci ascoltiamo questo grandissimo brano di Arthur Adams che si intitola appunto I'm Lonely For You. I'm not the one who's always right. e abbiamo ascoltato Arthur K. Adams con I'm Lonely for You. La puntata è giunta a conclusione. Mi rimane il tempo per un ultimo brano. Io vi saluto, vi ricordo che potete ascoltare il podcast, penso da domani più o meno, sul blog di Radio Wombat Firenze, il podcast di questa 20ª puntata. Vi saluto ricordandovi che la trasmissione tornerà mercoledì prossimo alle 19. Vi saluto con questo brano di Fred Lowery che si intitola Can't Get Enough of My Baby's Loving. Fred Lowery, a risentirci alla prossima puntata mercoledì prossimo o alla registrazione che vi ricordo potete ascoltare sul sito di Radio Wombat. Arrivederci.